questa lunga battaglia si è conclusa con la nostra vittoria. Quando si vince bisogna essere generosi. Ci lasciamo dietro le spalle tutti i veleni, tutte le polemiche che hanno contraddistinto questa campagna elettorale. La mia ferma intenzione è quella di essere il sindaco di tutti i romani.